Il gastronauta di Davide Paolini. Io donne ne ho avute tante che mi han capito, e altre che in malafede mi han ferito, ma è arrivato giusto per me il momento. Beh, non sono io che canto. Buona giornata da Davide Paolini. Ebbene, è il cantante soporifero Julio Iglesias. Ma perché? Perché questo cantante? Beh, il motivo è connesso a questa trasmissione di oggi. Nel 1994 Julio Iglesias, in un'intervista su un noto settimanale, facendo visitare la cantina e parlando di donne, disse: il vino è solo cosa per uomini. Ebbene, io allora risposi con un articolo sul Sole 24 Ore a questa, diciamo, affermazione, sostenendo appunto il contrario. Il contrario perché già allora intravedevo nelle donne sicuramente dei personaggi in grado non solo di produrre grandi vini, di seguire grandi vini, ma soprattutto di essere importanti per il consumo, perché oggi ritengo, osservando i molti locali in giro per l'Italia, ma poi vedremo, perché andremo da alcuni personaggi che gestiscono questi locali, che chiedono vino, scelgono vino, sanno scegliere, chiedono il marchio, chiedono, non chiedono semplicemente bianco o rosso, ma sanno benissimo ormai cosa chiedere. Allora oggi faremo, diciamo, una puntata tutto su questo, e voglio cominciare proprio con un qualcosa, argomentando i contraris, perché recentemente Alessandro Regoli, anzi Wine News con Vin Italy, hanno pubblicato un sondaggio dove diceva il contrario, che tuttora il vino è, diciamo, grande parte scelto dagli uomini. Buongiorno ad Alessandro Regoli. Buongiorno Davide. Allora, ci parli un po' di questo sondaggio? Semplicemente un sondaggio che recepisce delle risposte, sono state 1249 gli enonauti che hanno risposto a questo sondaggio, che in buona sostanza dice che è ancora l'uomo che sceglie e acquista il vino, ma cucinare tocca ancora alle donne, quindi i ruoli tradizionali vincono ancora nel mondo del wine and food. Chiaramente questo è l'espressione che è venuto fuori da questo sondaggio. Poi posso essere anche in parte d'accordo con quello che hai detto prima te, che insomma il ruolo delle donne in questo mondo sta andando, come in altri settori, molto alla grande, insomma, molto bene. Alla stessa maniera ci sono fior di produttrici, sommelier, enologhe bravissime, quindi voglio dire, non i sondaggi vengono fatti, certo, perché certo. Vengono fatti, insomma, non è che poi necessariamente sono, no, non è il Vangelo, ecco, questo sondaggio, no. È solo ci ha dato questo fatto, e questo stereotipo è duro a morire, insomma, ecco, quindi della scelta dell'uomo che sceglie il vino e le donne che ancora rimangono un po' a cucinare, ma insomma, ecco, Ma sai, i sondaggi sono importanti, perché molte volte le impressioni sono sbagliate, cioè con un campione di 1100 è abbastanza importante, però è ora, sì. direi proprio di basarci sul discorso: chi chiede il vino quando va al wine bar per l'aperitivo alla sera è sempre l'uomo. Allora io ora voglio andare a Verona. Verona è una delle città dove sicuramente il vino si consuma alla grande, non solo per il Vin Italy, ma durante tutto l'anno, e si vedono, io vedo spessissimo donne nei bar a Verona avere il calice in mano. Allora andiamo da Casa Mazzanti, da Zeno Villardi. Buongiorno Zeno. Buongiorno a te Davide. Allora, quali sono le tue impressioni, visto che tu vivi sul mercato? Io sentivo parlare della donna appunto come figura, no, che una volta era legata alla cucina, però la cucina è indissolubilmente legata al vino, e se vogliamo la donna ha una sensibilità superiore rispetto all'uomo. Io quello che posso vedere, perché ovviamente io sono sommelier, sono uno che amo il vino come passione, cioè al di là del fatto dell'etichetta, quello che mi piace bere, mi piace degustarla, però vedo poca attenzione a queste cose, nel senso che la massa, io vedo, perché facendo un bar dove l'attività di vendita di vino è soprattutto la mescita, cioè il bicchiere, spesso e volentieri la gente va a occhi chiusi, non sa neanche quello che beve, mentre in realtà la donna sembra avere un po' più di attenzione verso questo aspetto, perché probabilmente anche il fatto che beve meno o è anche più attenta a questo aspetto, sembra quasi porre più attenzione a quello che beve. Bene. Quindi non è esattamente qualsiasi, certo, cosa gli capita in mano. Bene. Non voglio dire che l'uomo è tendenzialmente, però la donna che si sta un po' emancipando anche da questo punto di vista, perché secondo me il vino, che una volta era territorio dell'uomo, come dire, no, io sono l'uomo, ma la donna si sta inserendo in un campo che è sempre stato, sembrava essere sempre, come dicevate anche voi, gioco dell'uomo. In realtà, oltre alle produttrici che stanno vendendo fior fiore a galla, che evidentemente, ma anche la consumatrice è decisamente di più qualità rispetto. Grazie Zeno. Ricordo, numero verde 800 24 0024, chi volesse intervenire, messaggi SMS 349 238 6666. Alessandro, un ultimo aspetto. Pensi che sia importante per le aziende oggi, visto anche che diciamo in Italia non è che i consumi vadano come in altri paesi, fare attenzione a cosa scelgono le donne? Ma sicuramente è un mercato importante, le donne sono cresciute moltissimo, basta vedere anche i tanti happy hour, ma la cultura delle donne, quindi sono d'accordo anche con l'enotecario veronese. Che stanno crescendo veramente, veramente tanto. Però ecco, ripeto, il nostro sondaggio ha registrato una tendenza che è diversa un po' da quella, appunto, dalle impressioni, certo, una cosa diversa dalle impressioni. Quindi si parla, le nostre percentuali sono un 68% dei casi, quindi è ancora la moglie ad occuparsi della preparazione dei pasti, e per quanto riguarda proprio l'acquisto del vino continua a pensarci soprattutto gli uomini per il 70%. Però insomma tanti anni fa probabilmente a questa percentuale non ci sarebbe arrivati, quindi vuol dire anche che qualcosa si muove, insomma, ecco, che quindi ci sono tantissime anche le risposte che comunque dicono che ogni tanto nella preparazione dei pasti, per esempio, c'è un grande alternarsi tra marito e moglie o comunque compagna. E anche nella scelta dei vini, tanti hanno risposto anche, appunto, con il 30%. La scelta viene fatta da donne. Il vino non è più solo un fatto per uomini, quindi vediamo se in questa maniera riusciamo magari a equilibrare quello che dice il sondaggio e non le impressioni personali. Ricordo, numero verde 800 24 0024, SMS 349 238 6666. Bene, continuiamo questo viaggio sentendo delle opinioni molto particolari. Ora abbiamo con noi Rossana Bettini, che è una giornalista enogastronomica nonché una validissima degustatrice. Buongiorno Rossana. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide, grazie per l'ottima degustatrice. Bene, ma Rossana, tu pensi che oggi le donne scelgono più consce di ieri, sanno benissimo quello che vogliono, scelgono l'etichetta, il vino, oppure... Io penso di sì, poi lo dicono un po' dappertutto che le wine lovers sono già a 20 anni, cominciano le ragazze a bere e a capire, a bere nel senso di comprendere e di capire la qualità del vino. Lo dimostrano, Davide, anche l'esponenziale crescita della presenza di ragazze al corso di sommelier, ce ne sono tantissime, una volta era riservato quasi agli uomini, era quasi implicito che solo gli uomini potessero partecipare ai corsi di sommelier. E poi c'è anche un fatto organolettico, anche questo si è detto in tante occasioni, quindi la donna ha dei recettori in più rispetto agli uomini e quindi quelli che sono i gusti, quindi l'amarezza, l'acidità, la sapidità, lo stesso dolcezza, la donna li percepisce di più rispetto all'uomo, quindi io direi effettivamente che ci sono più motivi per cui oggi il consumo sia in qualche modo condotto dalla donna. E poi se pensi anche se ci sono tantissimi uomini che fanno la spesa, è ancora la donna che fa la spesa, che va al supermercato, che guarda gli scaffali, che cerca i regali per magari andare a casa degli amici, no? Certo, rimani con noi Rossana, sentiamo un radioascoltatore uomo, Gustavo da Varese. Buongiorno Gustavo. Buongiorno, vi chiamo dalla città che ha un'università che è quella della birra, in un paese dove invece produciamo vino e dove abbiamo una grandissima tradizione del vino. E mi domandavo, come mai in Francia, che producono certamente un vino di qualità, ma lo producono con il contributo del nostro vino, hanno un'università del vino per garantire la qualità del prodotto, per creare un marchio di garanzia. E come mai invece in Italia, che è il paese dove c'è la più grande differenziazione, la più grande diversità di vini di tutto il mondo, grazie alla questione della latitudine e della longitudine del nostro paese, che è differente perché è di traverso, non è dritto, non esiste. Bene. Università del Vino. Gustavo, Gustavo, cosa ci fanno al governo questi signori? Gustavo, questa, se la mettiamo su questo punto non finiremo mai di tante cose che non abbiamo, che ci dovrebbero essere, quindi io vorrei un po' tornare sull'argomento. Accetto volentieri questo discorso che lei dice appunto di università della birra e non università del vino, però abbiamo moltissime università di enologia anche molto importanti a livello mondiale, quindi non credo che veramente siamo così arretrati sul vino, anzi direi che dal punto di vista scientifico siamo molto avanzati. Grazie comunque Gustavo, e volevo leggere un sms di Maida di Varese che dice: 29 anni, il vino rosso è quasi l'unico alcolico che consumo e adoro, mentre l'altra mia metà, maschio, consuma tutto il resto tranne quello, al massimo un po' di insignificante rosato. Beh, una bella batosta. Sentiamo un altro radioascoltatore, Andrea da Imola. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Mi dica. Allora, niente, volevo solo citare la nostra esperienza. Noi ci occupiamo di commercio elettronico di vini e principalmente gli acquisti vengono fatti da uomini, secondo appunto, sto parlando di statistiche di qualche migliaia di ordini, quindi e abbastanza significative. E noi gestiamo anche un blog e invece lì c'è più attenzione da parte anche del pubblico femminile. Questo è semplicemente un feedback che posso dare. Bene, grazie. Grazie Andrea. A proposito di blog e di altro, devo dire che ieri quando è stata annunciata questa trasmissione sul mio sito www.gastronauta.it, su Facebook e su Twitter, sono arrivate veramente tantissime osservazioni, quindi molte osservazioni che portavano un po', diciamo, a quell'impressione che io ho, che sempre di più sia la donna anche scegliere a tavola. Ma intanto sentiamo una ospite che è produttrice di vino ed è donna. Sentiamo Nadia Zenato. Buongiorno Nadia. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Lei, a lei voglio chiedere questo: è importante seguire i gusti femminili oggi sul mercato? Perché questo credo che sia importante per un produttore. Certo che sì, che è importante, anche perché le donne sono sempre di più che si avvicinano al mondo del vino, che si appassionano, sono loro poi a scegliere il vino. Proprio ieri sera mi è capitato a tavola con un gruppo di amici e siamo state noi donne poi a scegliere il vino, ma anche tavoli vicini, cioè c'è sempre di più questa tendenza anche a far scegliere la donna. E come tu sai, io faccio parte anche di un'associazione nazionale dove siamo più di 700 soci, l'Associazione delle Donne del Vino, di cui fanno parte non soltanto produttrici, ma ci sono tantissime sommelier, enologhe, ristoratrici, quindi credo che veramente il mondo del vino stia cambiando e siano sempre di più le donne che si avvicinano a questo mondo. Bene, grazie, rimani con noi. Sentiamo ancora, volevo tornare da Rossana Bettini, ma prima ricordo il numero verde 800 24 00 24. E Rossana, è un po', diciamo, ormai un luogo comune quello che diceva uomo rosso e donne rosato e bianco. Mi sembra che anche questa nostra radioascoltatrice che ha scritto questa SMS lo dimostri. Sì, mi è piaciuto che Nadia abbia ricordato le donne del vino, perché c'era già lei quando eravamo in 20, proprio 20, 21 al massimo, ormai una ventina d'anni fa, quindi il fatto di essere oggi 700 in Associazione Nazionale delle Donne del Vino effettivamente vuol dire qualche cosa, quindi grazie Nadia di averlo ricordato. Poi sai Davide, io pensavo anche alla tendenza, no? Alla fine è la donna che fa un po' moda, che la segue ma anche la crea. Io penso sempre, sai, adesso la coppia famosa è Angelina Jolie e Brad Pitt, no? Sono loro quelli che fanno un po' tendenza, ma se io mi chiedo, la Jolie tiene in mano un bicchiere di Brunello, certamente il giorno dopo sarà su tutti i giornali che Angelina beve Brunello, mentre se lo fa Brad Pitt in effetti non credo che faccia tanto moda, che faccia tanta tendenza, quindi c'è anche da pensare un pochino alla donna, certo, che fa la comunicazione, no? Bene, un sms da Stefano: a Udine le donne che bevono vino stanno superando gli uomini. E poi ancora a riguardo il supermercato, c'è Antonio che scrive: noto che anche ai supermercati le donne sono sempre più spesso presenti al reparto vino, scegliendo bottiglie con scrupolo ed interesse. Quindi credo sicuramente che appunto le statistiche si stanno avvicinando. Volevo solo dire che quando sarete come Donne del Vino il 51% non ci sarà più bisogno di fare l'associazione, a quel punto lì diventerete omologate. Vorrei tornare a Nadia Zenato. E Nadia, ma questa moda del rosé che è scoppiata 6 anni fa in Francia proprio a seguito della moda, non delle mode, insomma, volevo chiedere, ma ha contaminato le donne? Ma sai, cioè sicuramente sì, ma tu lo sai che il mondo del vino è un po' sempre un modo così di una moda, una tendenza. C'è stata questa tendenza del rosé, ma noi donne, cioè per esempio anch'io amo moltissimo il vino rosso, quindi il rosé non è che per forza è una tendenza e non è perché è rosé quindi deve essere per forza donna. Cioè io credo che alla fine quello che ci fa, diciamo così, ad avere un valore aggiunto è il fatto di questa sensibilità, di questa spiccata dote che abbiamo, olfattiva, questo gusto raffinato. Cioè la moda del rosé è esplosa da 6 anni e devo dire che adesso anche il nostro rosé italiano è un po' diffuso nel mondo, però non dimentichiamo che queste tendenze alla fine non è che sono seguite da donne, è una tendenza, un trend di mercato. Cioè quello che dobbiamo ricordare è che sempre di più la donna ha un po' questa spiccata, questo gusto raffinato e che quindi forse ci fa a volte anche scegliere determinate vini, determinate tendenze. Poi mi volevo collegare, sono sempre di più anche donne comunque del mondo dello spettacolo, donne emergenti che comunque si stanno avvicinando al mondo del vino con alcune aziende, alcune tenute, per cui sempre di più credo che siamo numerose, sono le donne che stanno un po' portando la guida di tantissime aziende. Bene, io volevo leggere un altro SMS interessante, perché dice: a volte le donne sanno quello che vogliono, ma quando trovi quella che non vuole, no, anzi il contrario, a volte sanno quello che vogliono e quando trovo una donna che vuole scegliere, la lascio scegliere perché assolutamente mi posso fidare. Bene, quindi questo, vediamo che ci sono così appunto SMS contrastanti. Sentiamo Antonio dalla provincia di Verona. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Prego. Niente, volevo soltanto dire questo, non è che le donne adesso ci hanno superato in tutto, adesso sono quelle che fumano anche di più degli uomini. Non è una questione di scelta fra l'etichetta del buono, bevono più di più. Perché io vedo un gruppo di giovani dentro al bar, le donne adesso, le ragazze, bevono e noi diciamo qui, scannano bussolotti. Bene. Hanno anche una buona scelta di vino, certo, ma bevono di più. Grazie Antonio della provincia di Verona, grazie a Nadia Alzenato e a Rossana Bettini. A Verona questo Antonio, perché parlava, dice che così vedendo le donne bere trincano, lui diceva, e trincano come più degli uomini. Volevo collegarlo invece a un SMS di una dottoressa Paola, che io prego se può intervenire in trasmissione facendo l'800 24 00 24, sarebbe molto interessante, perché mi dice: non si dice che il vino fa più male alle donne che agli uomini perché lo metabolizzano più lentamente. Allora, questo è un aspetto abbastanza interessante, forse di cui non abbiamo parlato. Se questa dottoressa Paola vuole estendere un po' questo argomento, ben volentieri. Bene, ora andiamo in Sardegna, andiamo da una produttrice, una nota produttrice in Sardegna, Valentina Argiolas, e anche a lei io voglio chiedere se le aziende oggi, appunto, quando creano anche nuovi vini, quando appunto entrano con nuove etichette, sono molto attenti al consumo femminile. Buongiorno Valentina. Buongiorno a tutti. Allora, beh, sicuramente se oggi la fascia di consumo femminile si sta aumentando, basta vedere i numeri dei corsi di sommelier o il fatto che sempre più spesso le donne scelgono vino al ristorante, ma noi lo vediamo anche ad esempio in cantina, dalle visite guidate, dal grado di preparazione proprio delle donne, che è completamente invertito. Sono loro ad esempio a prenotare le varie degustazioni qui in cantina. Ecco, assolutamente sì. Ma ecco, volevo chiederle anche questo, cioè nei locali in Sardegna appunto le donne scelgono vino quando vanno a prendere l'aperitivo, scelgono anche quando in presenza di maschi, oppure è ancora, diciamo, è ancora un fatto di retaggio maschile questo? No, questa distinzione non esiste più, secondo me, soprattutto nelle donne giovani, quindi nella fascia d'età che va dai 28 anni ai 40, magari nelle donne più grandi sì, che magari la vecchia generazione, ma le nuove generazioni che si stanno approcciando oggi al mondo del vino, quindi in questa fascia d'età, assolutamente non c'è più distinzione. Bene, ricordo numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666, chi volesse intervenire. Leggo anche Un altro sms che arriva da Forlì e dice: beh, un tempo gli uomini conquistavano le donne a tavola bevendo, offrendo champagne, e ora che succede? Sono le donne che offrono champagne agli uomini? Beh, abbiamo sentito che può anche succedere, ma chiediamolo a Daniele Bresciani di Mantova, quindi un barman che ha girato diversi locali importanti nella sua città e quindi osservatore del consumo. Daniele, allora, le donne scelgono vino loro ora? Buongiorno a tutti i radioascoltatori innanzitutto. Sì, assolutamente, come diceva la produttrice, sono in grado ormai di essere assolutamente autonome. Sono molto più attente e sono anche più numerose come presenza di pubblico all'interno di un wine bar o comunque di un locale dove si mesce del vino. Ecco, lei ha notato delle tendenze particolari nelle scelte femminili, di marche particolari oppure vini particolari? Sì, io sarei generalizzando un po' il discorso sui bianchi aromatici come linea di bianchi fermi, però tante bollicine. In questo periodo in modo particolare c'è un'attenzione per il rosé, ecco, un ritorno del rosé nelle donne, che piace molto questo gusto abbastanza morbido, fruttato, sempre come bollicina, metodo classico intendo. E d'inverno chiaramente anche tanti rossi, perché comunque alla fine anche la stagione ha la sua importanza, insomma. Quindi ormai se scelgono indipendentemente da quello che si diceva un tempo, che i vini molto più leggeri o d'altro, quindi vini insignificanti, ormai è cambiato questo atteggiamento, mi sembra di capire. Assolutamente, sì, assolutamente cambiato. Poi tra l'altro sono molto, cioè, se un vino non piace non è che lo bevono per forza, sono proprio molto più attente, ti danno poi degli elementi per descrivere un vino e tu devi, insomma, riuscire a capire cosa è il loro gusto e cosa può piacere in quel momento lì. E Valentina, voi esportate in diversi paesi del mondo come azienda, nota che anche all'estero diciamo succede questo fenomeno, sempre più le donne consapevoli di cosa scelgono e molto preparate? Assolutamente sì, soprattutto nella zona, io ho trovato asiatica, è l'unica zona di paesi dove abbiamo a capo delle nostre ditte di importazione delle donne, tre donne, quindi già questo è sintomatico della situazione. Ci sono tre donne in Giappone, a Singapore, a Hong Kong e Macao che gestiscono tutta la parte dell'importazione dei vini italiani. E poi assolutamente le collaboratrici sono donne, le ristoratrici sono donne, sì, soprattutto in Asia ho trovato questo cambiamento. Questo è quindi un cambiamento profondo, specialmente in un paese che è sempre stato molto particolare, diciamo poco avvezzo al vino quell'area di mercato, quindi sicuramente importante per la produzione. Bene, ricevo un sms che sinceramente non capisco, e vogliamo parlare del vino annacquato con l'acqua? Beh, se già annacquato abbiamo già capito, detestabile, dice Daniela, ma non capisco a quale proposito, non è che abbiamo mai detto che le donne bevono vino annacquato oppure bevono vini scadenti, quindi non ho capito. Io rifaccio l'appello alla dottoressa Paola, se volesse intervenire, perché secondo me è molto interessante questo concetto che lei ha esplicato su questo sms. Daniele Bresciani, negli ultimi anni si è vista una tendenza cambiare, nel senso che le donne stanno andando sempre di più a vini non più locali, ad esempio nella sua città, oppure vini vicini, ma con una conoscenza molto più particolare dell'intero mondo dei vini? Esatto, assolutamente, anzi c'è molta curiosità per quanto riguarda le nuove tipologie appunto del bere, per cui abbiamo comunque un'ampia gamma di proposte che poi alla fine sono le prime, le donne, ad essere curiose, ad avere proprio la voglia di assaggiarle, poi magari può anche non piacere, però quantomeno la curiosità è, insomma, c'è sicuramente più attenzione, ecco, alla novità o al cambio di Ecco, il rapporto delle donne con le bollicine. Bollicine sono in assoluto la cosa che va in assoluto di più. Come numero, il numero delle bollicine, partendo dal prosecco, andando per metodo classico e champagne, comunque in assoluto il prosecco forse è quello che si vende di più, per motivi anche proprio di, essendo molto fruttato, un extra dry, quindi molto un residuo zuccherino che piace, ecco, a basso di gradazione, per cui incontra tantissimo, ecco, proprio nel mondo femminile. Più vino o spritz? Ecco, il fenomeno spritz, lei mi fa una domanda interessante, devo dire che è un fenomeno da non sottovalutare, insomma, sicuramente qualcuno, specialmente nel periodo estivo, primavera-estate, quando comincia a fare un po' più caldo, abbandona il vino, magari prende qualche sprizzo in più, ecco. Ho capito. Volevo tornare a Valentina Argiolas sul discorso acquisto non tanto, diciamo, nei bar, wine bar o ristoranti, ma soprattutto, diciamo, acquisto in enoteche e supermercati. Ecco lì, secondo il vostro osservatorio, le donne sono molto importanti per l'acquisto ai supermercati oggi di vino oppure anche in enoteca? Assolutamente sì, basta controllare le statistiche, comunque la donna che ancora oggi va a fare la spesa e che acquista il vino, quindi a lei la scelta. È anche vero che la prima cosa che attrae, diciamo, l'immagine nello scaffale di un supermercato è il prezzo, però poi anche oggi la grande distribuzione sta avendo delle enoteche veramente molto fornite, basta pensare a una delle più famose grandi distribuzioni italiane, dove hanno enoteche con il sommelier addirittura, quindi già una scelta non più basata quindi solo sul prezzo e sull'immagine, ma proprio sulla qualità del prodotto. Ecco, ma devo dire che oggi invece di telefonate spiritose arrivano molti sms molto spiritosi. Allora sentiamo Esther, dice: un tempo noi donne privilegiamo vini con i gusti facili, rotondi. Si diceva anche un vino da donna. Ora io personalmente amo i vini biodinamici e a tavola ordina il mio uomo, ma la richiesta la faccio io. Ben, non male questo sms. E ancora un altro citando Woody Allen: papà, è mamma che comanda in casa. Mamma, ma che dici? In casa comando io, l'uomo, tua madre prende solo le decisioni. Bene, anche questo è molto spiritoso e devo dire che si può benissimo rapportare al vino. Ecco, voglio tornare a Bresciani sul discorso vini biodinamici o vini biologici o vini naturali. C'è richiesta da parte delle donne che lei abbia notato nei locali appunto dove lavora? Allora, devo essere sincero, qualche tentativo noi lo facciamo di proporre così il biodinamico, il biologico, il vino naturale, e c'è ancora un po' di difficoltà, parlo da parte nostra, poi magari in altre situazioni non è così. Devo dire che sono stato alla Vinnatura a Montebello e c'erano parecchie donne che comunque giravano per assaggiare, per conoscere, per poi poter proporre magari nel proprio ristorante, nel proprio locale. Quindi non so, è un fenomeno anche questo in espansione, sicuramente sono un po' più difficili, tra virgolette, insomma, chiamiamoli così, rispetto a un vino tradizionale. Bene, grazie a Valentina Argiolas e a Daniele Bresciani. Io ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, possiamo cominciare a dire che il vino non è più solo cosa per uomini, perché mi sembra che questo sia un po' quello che emerge sempre più evidente, e io sono molto contento di questo, perché già, come ho detto prima, nel 94 l'avevo scritto in proposito. Allora sentiamo radioascoltatore Augusto da Verona. Buongiorno Augusto. Buongiorno, mi fa molto piacere salutarla per una cosa. Senta, io volevo dire una cosa, a parte che le donne stanno intendendosene molto e questo mi fa molto piacere, ma io volevo far presente a lei che mi è capitato proprio recentemente in ristoranti che io frequento che mi consigliano dei vini da provare che non sono assolutamente vini adatti alla stagione. Sto parlando del bianco e della loro gradazione. Secondo me in questa stagione il sommelier, indipendentemente dal prezzo o da altre cose, dovrebbe consigliare un vino beverino, chiamiamolo, un vino leggero che si abbia la gioia e il piacere di berlo e poi di alzarsi tranquilli, beati, senza aver bevuto un vino di un peso e di una gradazione alcolica elevata. Grazie Augusto da Verona. Bene, abbiamo parlato prima di un sms di una ascoltatrice che parlava di vini biodinamici e lei diceva: ora io personalmente amo i vini biodinamici. Ebbene, abbiamo con noi una produttrice appunto di vini naturali importante, che è Arianna Occhipinti. Buongiorno Arianna. Buongiorno Davide. Allora io voglio proprio chiedere a te questo rapporto, guarda, questo sms è arrivato prima del tuo collegamento e io ti chiedo, ecco, questi vini naturali rispetto alle donne, quale ricezione c'è? Perché tu appunto sei a contatto con questo mondo e puoi darci così sicuramente un flash su questo. Ma la ricezione è molto positiva sia da un punto di vista del fare il vino, perché tante sono le produttrici appunto donne di vino naturali che nel berlo. Sempre più spesso negli eventi che facciamo capita di trovare le donne che sono appassionate di questi vini. Si parla spesso di sensibilità, di maggiore sensibilità da parte delle donne, forse le sì, forse no, però sicuramente tante sono le donne. Sono anche tante le donne che producono vini naturali, le produce, certo. Che non vuol dire solo vendere, perché spesso la donna del vino è la donna che mette la faccia sulle vendite, sugli aspetti commerciali. C'è un'Italia piena di donne che fa il vino, che materialmente sta in vigna, che materialmente sta in cantina, che ha questo contatto della terra, questa sensibilità che viene appunto sviluppata nel fare il vino, e forse a volte poi si sente. Tante persone dicono questo vino è donna, ma forse, non, forse lo dicono per una sensazione generale che hanno, ma anche forse è vero, quando si assaggia un vino fatto una donna è possibile anche trovare delle caratteristiche di femminilità, eleganza. Certo, devo dire che questa, diciamo, questa tua osservazione è importante, perché è vero, nel mondo dei vini naturali c'è un gruppo di donne importanti, importanti. Tra l'altro è stato fatto anche un cortometraggio su quattro di voi, quindi questo dimostra appunto quattro di grossa personalità, devo dire. Devo dire che questo segna appunto i vini naturali in maniera molto, molto particolare, ed è vero, sono vini sentiti, per cui sicuramente la donna ha delle sensibilità probabilmente superiori all'uomo. Ma sentiamo Vittorio dalla provincia di Latina, un radioascoltatore. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Sir Paolini, io l'ascolto tutti i sabato, mi fa molto piacere. Sì, volevo dire, ma non avete parlato del vino aspro e forte, ma forse allora non si può fare un po' più leggero, più... Ma no? Guardi che oggi parla sempre molto di come si chiama, di... Oggi parlavamo più che altro di un altro argomento, per cui non so cosa, cioè il vino aspro e leggero cosa vuol dire, che si va verso produzioni di vini molto particolari, non capisco. No, Vittorio. No, particolari, ma è proprio l'abitudine di fare vini forti, specialmente anche quelli imbottigliati col tappo di sughero, quando uno le beve o ti fanno girare la testa o sono altri forti. Ma io dico una cosa, ma se fosse... Ma scusi, lei cosa compra? Il vino da 0,98 al litro probabilmente, perché insomma vini col tappo di sughero a 0,98 o 1 euro, io dubito che ci siano. Comunque grazie Vittorio di questa osservazione. Io ora voglio andare a Roma, perché abbiamo sentito alcune città, abbiamo sentito Mantova, abbiamo sentito Verona sul discorso del consumo, quindi del consumo in locali dove si fa happy hour, aperitivi ed altro. Qual è appunto la tendenza e se le donne scelgono e sanno ben scegliere? Io lo chiedo a Andrea Fiocco del MoMA Art Café di Roma. Buongiorno Fiocco. Buongiorno a tutti voi. Ecco, la sua esperienza in proposito. Ma la nostra esperienza è pluriennale per quanto riguarda l'orario dell'happy hour. Possiamo sicuramente dire che le donne hanno più dinamismo nella loro scelta del prodotto, condividono molto di più la loro esperienza, tant'è vero che da clienti, questo è uno studio, un'osservazione che si può fare su clienti che sono spesso fedeli, chiamiamole così, che magari cambiano la loro propria scelta anche in base alla stagionalità, anche al clima, al tempo, a come si sentono anche. Ed anche questo è frutto sicuramente di una, come ripeto, una condivisione anche di esperienza, che di questo si tratta quando si prende una bollicina di qualità sicuramente, piuttosto che un vino, piuttosto che un drink, per dire uno spritz per tutti, ecco. Io direi che le donne nell'orario dell'aperitivo si suddividono su questi tre, diciamo, direzioni. Ecco, c'è un vino in particolare che lei ha visto, che diciamo è quello più gettonato, guardi, come si dice? Guardi, penso primo fra tutti il Gewürztraminer, in assoluto. Quindi aromatici. Aromatici, fruttati, leggeri, ma sicuramente ecco una nota che contraddistingue tutte le loro scelte è sicuramente la qualità della proposta, a quale bisogna stare molto attenti, perché come risaputo le donne hanno uno spirito critico e di osservazione superiore agli uomini, questo è chiaro. L'uomo quando sposa magari un prodotto beve a pranzo, cena, colazione, dopo cena, sempre quello magari, parliamo di drink. La donna invece magari varia in base anche alla situazione che sta vivendo in quel momento. Quindi bene, diciamo, abbiamo capito, dico, è ben chiaro, mi sembra ben chiaro, perché aromatici è venuto fuori moltissime volte ormai. Sì. Negli ultimi anni diciamo sta crescendo anche il consumo di bollicine di alta qualità, metodo classico, parliamo sempre che può essere Franciacorta, sia Brut che anche Rosé, che sta crescendo molto, sta raggiungendo i consumi del brutto sicuramente. E i vini biodinamici o naturali? Biodinamici, diciamo, la nostra proposta è su un rosso in special modo, diciamo così, che fa il suo, ma non viene fatta una richiesta diretta. Beh, nel senso, se viene proposto sicuramente crea curiosità e magari viene scelto, però non viene richiesto direttamente come può essere richiesto un buon vino bianco, piuttosto ecco una Bollicina o un long drink che viene proprio richiesto specificatamente. Diciamo che la produzione biodinamica va più proposta che bene, altro. Un'indicazione per Ariani Occhipinti, ma è noto che ancora sono poco conosciuti, quindi bisogna fare molta informazione appunto su questi vini cosiddetti naturali. Ebbene, io chiudo questo viaggio nel pianeta donna del vino e rimango della mia idea che sempre di più la tendenza sul mercato sarà donna per quanto riguarda i vini. Io vi do appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05 e vi auguro una buona settimana.